Ach du Teufel! Jedes Heim, ich take in my shower. Das Telefunken gehen geringing. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K che stavo facendo la doccia, non so qui. E un saluto da Drago che invece la doccia l'ha già fatta stamattina in tempo, ecco. Oggi parliamo di cani. Tito, dai. Se parliamo anche di Tito o sì. Parliamo solo di te, di sì. Cani in che senso? No, di cani, ma non propriamente di cani, ma di accessori per cani. No, solo per dire che al giorno d'oggi è molto difficile distinguere un ciuccio per bambini da uno di quei cosi che si danno ai cani che stanno cambiando i denti e vogliono masticare. La forma è identica e anche i materiali. Quindi attenti se avete un cucciolo di cane o di uomo a non fare errori, tipo ma dare che è giusto così, scusa. Ma il cucciolo è come un bambino, vero Tito? Usciti! Tito! Ma cosa che non deve mettersi adesso a fare geure anche i bambolotti per bambini e per cani sono identici, K. Ma l'industria si è accorta che i possessori di cani comprano più volentieri cani che bambini. E quindi? Capito? E quindi anche i prodotti per cani diventano uguali a quelli per bambini, così uno fa finta di avere un bambino invece ha un cane. Vabbè, questo è un segno dei tempi però, Ecco, questa sarebbe la versione per Kazoo di Sign of the Times di Prince. Canta. Prince. Time. Quanto dobbiamo andare avanti qua? Vabbè che adesso Radio 24 deve svoltare sulla musica, ma non è che possiamo occuparci non noi di dirlo così, sono cose ufficiose ancora, dai. Allora, tornando all'obesità, Ma cos'è? Tornando all'obesità. Perché mi guardi? No, parlavamo dell'obesità infantile in Italia, no? Ieri, però adesso vorrei invece spostare l'attenzione sull'obesità degli adulti in India. In India. Drago, ma in India sono tutti magri, anche le mucche. In genere, però dipende dalle caste. Cioè, da casta a casta c'è una bella differenza. Se sei della casta dei poveracci, per forza che resti magro, vivi su uno spartitraffico, mangi una volta alla settimana. Se sei della casta dei ricchi, mangi come un porco. Chicken tikka, tandoori di qua, tandoori di là, chicken masala, karanki, chicken, tre chicken. Ecco, quindi soprattutto chicken. C'è anche cheese naan, però. E poi i semini alla fine. Il maiale non lo mangiano. Però alla fine i semini. Sì. Ti vanno a finire semini, no, sono molto buoni i semini che ti danno alla fine. Ah sì, quelli un po' per avere la bocca buona dopo. Sì, cosa che tu usi mai. Vabbè, succede comunque buona. Che c'è un chirurgo estetico in India, di quelli che ti succhiano via il grasso e dopo l'operazione sei magro, che ha operato metà del governo indiano e adesso aspetta di operare l'altra metà perché sono tutti obesi. Ma obesi tipo Sai Baba? Tipo, però lo sai, vero che... Cosa? Che Sai Baba... Come? Sì, Sai Baba. Ma Sai Baba faceva i miracoli, lo so. Materializzava le cose, realizzava i desideri. Ma è possibile che anche lui? Sai Baba. Dopo anni di mirabili prodezze religiose, anche economiche, anche lui con i suoi capelli neri, ricci, alla cocciante, anche lui con la sua tunica arancione, anche lui, come tutti gli umani, anche Sai Baba è morto. Vabbè, sarà anche morto, però non era obeso, Sai Baba. Era obeso. Oh, Gildo, che è ancora senza testo questa canzone meravigliosa. Ma nessuno manda più i testi, ma perché? Perché tu sei troppo critico e la gente ci resta male. Cosa vuol dire? L'altra volta hai detto a un aspirante autore che avrebbe fatto meglio cambiare mestiere. Ma è una tattica di marketing, cioè, quella di trattare male la gente. Ma non certo più. Ma guarda che lo fa anche il bambino Cruciani. Ma lui non tratta male nessuno, lui è solo ruvido. Ma lui è ruvido, allora anch'io sono ruvido, sono carta vetratoso. Sì. Dai. In ogni caso non abbiate paura, da oggi K sarà molto meno ruvido, quindi dice? Molto più liscio. Ma senza attrito, praticamente lubrificato, va bene K? Lubrificato, Drago, proprio non mi piace. Non ti piace di più ruvido. Con la barba da farsi, capito? Uomo rude, duro. Ma ruvido c'è già Cruciani. Ma Cruciani è astemio. E quindi cosa c'entra? Quindi non è ruvido, è astemio. Ma sono due concetti senza alcun legame. Ma lo dici tu, prova a far ubriacare Cruciani e poi vedi cosa vuol dire essere ruvido. Quello che succede in Italia viene visto con un occhio completamente diverso. Ho capito, lo sappiamo, lo sappiamo. Lei è un giornalista. Io sono un giornalista, e che cosa devo dire? Secondo lei, Tonino, io sono un giornalista, mi chiamo Giuseppe Cruciani, non sono un giornalista, capito? Cioè, no, sono anche un giornalista, ma non è che i giornalisti sono tutti uguali, non è che c'è la categoria il bollino addosso. Mi chiamo Giuseppe Cruciani, punto. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. No, dai. Cosa fai? Ma che schifo. Cos'è? Un rosso. I gargarismi, bravo. Per la voce. Per la voce, per la gola. Ecco, bravo. Si sente un mal di gola. Fai bene, perché qui carta canta si dice che alle donne piacciono gli uomini come Barry White. Quindi con la voce di Barry White. Non il sovrappeso, l'essere di colore, voce, essere voce, vecchio, eccetera. Quindi vabbè, il resto non conta. Voce è il mezzo di seduzione numero uno. Lo dice qui, documenti alla mano, il neuroricercatore inglese Kevin Allan della Università di Aberdeen in Scozia. Quindi la voce è bassa, più rock, insomma, è meglio. E certo, non puoi piacere a una donna se hai la voce bianca. Questa è la conclusione. Allora, scusa, Letizia Casta non è una donna. Come Letizia Casta non è una donna? Certo che è una donna, addirittura il simbolo della Francia, la Victoire. E allora perché si è messa con Stefano Accorsi? Perché si è innamorata di lui? Stefano Accorsi è un bel ragazzo. Sì, però secondo il dottor, come si chiama? Allan. Dell'università di Aberdeen, in Scozia. Uno con la voce di Stefano Accorsi non potrebbe piacere alle donne, scusa. Quindi se piace a Letizia Casta significa che Letizia Casta ci nasconde qualcosa. Qualcosa. E anche Accorsi ci nasconde qualcosa. Tutti e due ci nascondono qualcosa. Buonanotte. Qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Benassi. Volevo dire Accorsi. Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Io non dormo. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Sì, ma cosa dici? Ci nascondono un segreto, nel senso che Letizia Casta ha un dolce segreto che... Scusa, come la mettiamo con Mario Giordano? In questi 7 anni abbiamo aumentato, anzi abbiamo quadruplicato gli ascolti del nostro telegiornale. Abbiamo aumentato gli spazi di informazione sulla rete, abbiamo realizzato scoop. Vabbè, Mario Giordano, lui ha 4-5 figli, io conosco la moglie che è sicuramente una donna, anche lei, quindi anche lui, anzi è un'eccezione, perché pur avendo la voce bianca piace alle donne. Alle donne, la sua moglie. Vabbè. Quindi il dottor Alla non è che ci azzecca poi così tanto, perché ci sono anche quelli che hanno la voce. Tu hai la voce bassa, insomma. Insomma cosa? Ma no, niente. Beh, guarda che se adesso sono in radio è solo per merito della mia vociona, non certo per altri motivi. Si capisce. And when you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. Ce la faccio? Vai. In the moment that you wander away from me, I wanna feel you in my arms again. Vai, vai, vai. And you come to me and breathe me now, keep your warm. La voce non è un problema, sono le parole che non le sai. La voce va benissimo, secondo me. And the star you need to know. Devono transennare qua, sono tutte le donne che ti vogliono, drago.